Letture di Radio 24. Si intitola Hollywood Detective, il nuovo romanzo dello scrittore americano Loren D. Estelman, che ha per protagonista l'investigatore dilettante Valentino. Archivista cinematografico all'Università della California, Valentino sta perlustrando le cantine di una vecchia sala cinematografica assieme a Broadhead, professore di cinema, e della sua assistente, Fanta, quando scopre un contenitore al cui interno sembra esserci l'unica copia integrale di Rapacità, il capolavoro del regista austriaco Erich von Stroheim. Ma non è l'unica sorpresa nella quale si imbattono i tre cinefili. Vicino alle pellicole c'è infatti uno scheletro umano. Il fascio di luce della torcia si spostò illuminando il resto dello scheletro ammucchiato vicino alle macerie cadute nella stanza. Nell'oscurità sembrava come parte del muro rotto. In quel momento Valentino si rese conto di non averne mai visto uno dal vivo e si sorprese nello scoprire che non era affatto diverso da quelli visti e rivisti nei film. Lo scheletro, con il teschio dallo sguardo malizioso e dalle costole simili a cerchi, indossava un elegante soprabito ingrigito dalla polvere. Broadhead, davvero studioso, si abbassò e dette dei colpetti a un omero con il fornello della pipa. L'osso si staccò dalla spalla e cadde a terra con un rumore sordo, come quello di una pellicola che gira in un proiettore. «A prima vista direi che è qui da quando esiste la parete», commentò. Si girò e si mise una mezza dozzina di pellicole sotto le braccia. «Datemi una mano con queste. Fanta, va al piano di sopra e porta giù il maggior numero di contenitori possibile, senza farli cadere. Se siamo fortunati, il loro contenuto è fragile come cristallo. Se il materiale si è trasformato in una viscida muffa arancione, possiamo sempre condirci l'insalata». Valentino lo fissò. «Dobbiamo sporgere denunce». «Certo, e una volta che lo avremo fatto, tutto l'edificio diventerà una scena del crimine. E quello che contiene sarà proprietà pubblica chissà fino a quando». Vuoi vedere cosa possono fare diversi mesi in un archivio umido a tre quarti di secolo che un ambiente relativamente stabile non può fare? Von Stroheim ti perseguiterà fino alla tomba. Cosa c'è di stabile qui? L'aria qua giù è fresca e secca. Per questo sono fiducioso per questa roba. Non posso dire lo stesso per ciò che è al piano di sopra. Il nitrato d'argento è instabile. Sappiamo che può sopravvivere in condizioni che vanno oltre la cosiddetta soglia di sicurezza ed esplodere come un petardo quando un'idea geniale ti incendia il cervello. Tuttavia, se è rapacità, non vogliamo che qualche stupido sergente di turno lo scambi per un porno e lo proietti nel fumoir. Qui tutto appartiene al nuovo proprietario finché le autorità non vengano a conoscenza dell'esistenza dello smilzo. Farlo portar via rientra nei tuoi diritti e loro non devono essere messi a conoscenza di cose contenute in questo edificio. Ciò non rientra nei miei diritti, obiettò Valentino. Come si chiama? Fanta, sei tu la studentessa di legge. «Intralcio alla giustizia», rispose. «Sono d'accordo con il professor Broadhead». «Stai scherzando? Non sappiamo cosa abbia ucciso questo tizio. Forse è morto per cause naturali e tutto ciò che abbiamo è un caso di smaltimento improprio di cadavere da parte di qualcuno che adesso potrebbe essere ugualmente morto stecchito. Se si tratta di omicidio, stessa storia. Lo dobbiamo ai posteri. Dobbiamo proteggere un capolavoro da una distruzione non necessaria». Anche se significa infrangere la legge. Rientra tutto sotto la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e io la sostengo in tutto e per tutto, replicò lei alzando il mento. A te la decisione, Val. C'è il tuo nome sull'assegno per la caparra. Il giovane non rispose, ma fece un passo avanti e cominciò a raccogliere le pizze contenenti la pellicola. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Loren D. Estelman, Hollywood Detective, Gargoyle Editore, 208 pagine, €16,50. Per quale ragione a volte capita che chi viene chiamato a fornire una testimonianza su un evento al quale ha assistito riferisca informazioni completamente distorte, pur essendo in buona fede? In un articolo pubblicato sull'ultimo numero di Polizia Moderna, Luigi Lucchetti, dirigente superiore medico-psicologo della Polizia di Stato, spiega quali sono i meccanismi che condizionano la nostra memoria al punto da alterare i ricordi. è oggi divenuto sempre più essenziale per i professionisti che operano in ambito giudiziario e di polizia, conoscere in dettaglio come funziona la memoria testimoniale e a quali distorsioni possa andare incontro, nonostante l'assoluta buona fede di chi fornisce i suoi ricordi, con il solo scopo di collaborare per ricostruire la verità di un fatto giuridicamente rilevante. Che cosa dobbiamo intendere per memoria testimoniale? È semplicemente il resoconto di un soggetto che ha assistito o ha partecipato a un evento di una certa complessità e per lo più accaduto di recente, che viene fornito a fini di giustizia. In occasione di un reato, di un incidente stradale, di una controversia in ambito civile, nell'ambito del diritto canonico, eccetera. Le informazioni che il resoconto veicola sono sia di tipo verbale, ad esempio Tizio ha pronunciato o non ha pronunciato una certa frase di minaccia, che non verbale, come la memoria visiva della faccia del rapinatore o la memoria spaziale delle posizioni di due veicoli al momento dello scontro mortale che li ha visti coinvolti. Tutte queste informazioni hanno inoltre la caratteristica di essere quasi sempre relative ad azioni svoltesi in sequenze temporali molto rapide e in assenza di qualunque preavviso per il testimone circa la rilevanza di ciò a cui sta per assistere. In questo contesto, inoltre, i particolari, i piccoli dettagli, sono frequentemente essenziali ai fini della ricostruzione della dinamica del fatto e quindi decisivi per l'esito giudiziario. Mentre in molti casi la ricostruzione testimoniale è sostanzialmente fedele rispetto alla realtà dei fatti, in altri si assiste a rilevanti effetti distorsivi sulla memoria di persone che quindi, pur in assoluta buona fede, affermano il falso non sapendo di mentire. Come può avvenire tutto ciò? Cosa ci porta a dire che la macchina era verde invece di blu? O che abbiamo sentito il nome di Claudio, che invece era Matteo? O ancora ad aver visto una persona con il cappello quando la stessa era invece a testa scoperta? Le cronache di questi ultimi mesi riguardo a gravissimi fatti, come il rapimento di Brembate di Yara Gambirasio o la scomparsa di Alessia e Livia, le due figlie gemelle del cittadino svizzero suicida a Cerignola, sono ricche di testimonianze false di persone certamente in buona fede e senza disturbi psichiatrici. Queste distorsioni della memoria consistono nel ricordare uno o più particolari in modo diverso da come erano in realtà, ad esempio il giorno in cui il testimone ha visto la vittima, o nel ricordare elementi non presenti nell'episodio, ma fortemente plausibili, come la presenza di una donna accanto a un uomo e due bambine. Questi effetti distorsivi possono determinarsi in ciascuna delle tre fasi in cui si struttura e articola il ricordo di un evento. La codifica, mentre si assiste o si vive l'evento, la ritenzione, il periodo che può essere anche molto lungo, che trascorre tra il fatto e il momento in cui il testimone effettua il resoconto, il recupero, nell'immediatezza della testimonianza. Quali sono i meccanismi che, agendo su una o più di queste fasi, condizionano il ricordo determinandone la distorsione? Uno degli elementi più potenti nel determinare la distorsione del ricordo è costituito dalle informazioni fuorvianti, acquisite spesso passivamente dopo aver assistito all'evento. Facciamo l'ipotesi di un grave incidente stradale che abbiamo avuto la possibilità di osservare in prima persona. Successivamente può avvenire che parliamo di quanto accaduto con altri testimoni dell'evento, che leggiamo un articolo di giornale che descrive il fatto, che vediamo fotografie dell'incidente navigando su internet o riprese dello stesso guardando un servizio in televisione. Le informazioni raccolte attraverso queste fonti spesso non coincidono, in tutto o in parte, con quanto da noi direttamente osservato per quanto riguarda dettagli che erano assenti o significativamente diversi nella nostra registrazione originaria. Che cosa può avvenire quando saremo chiamati, magari dopo parecchi mesi, a fornire la nostra testimonianza? Esperimenti in tal senso, iniziati nei primi anni del secolo scorso negli Stati Uniti, hanno dimostrato che esiste una probabilità assolutamente consistente che si verifichi una distorsione della nostra memoria che integra, facendole proprie, informazioni successive all'evento, con frequenza in misura percentualmente maggiore per i dettagli cosiddetti periferici, cioè non essenziali per la comprensione del fatto, rispetto a quelli centrali, i quali ultimi però, anche se in misura minore ma non trascurabile, risultano anch'essi vulnerabili alla misinformation. Gli stessi esperimenti hanno evidenziato che quando le persone accettano le informazioni fuorvianti Esse si dimostrano sicure del loro ricordo durante il resoconto testimoniale e poiché la sicurezza trasmessa dal testimone influenza potentemente chi è chiamato a giudicare, ciò rende conto dell'estrema pericolosità di questo meccanismo perverso che di fatto conduce individui onesti e mentalmente sani ad affermare il falso in perfetta buona fede, assolutamente convinti di quanto riferiscono e convincendo a loro volta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luigi Lucchetti, Dire il falso in buona fede, dal numero di novembre del mensile Polizia Moderna.